Nella città di Genova viveva una famiglia con padre, madre, figlia, la figlia all'ospedale. La mamma andò a trovarla, Ninetta, come vai? Mamma, la mi va male, la mi va proprio male. Fammi un piacere, mamma, fammi chiamar Moretto, che prima di morire la voglio rivedere. Moretto entri in camera e s'avvicina al letto, col bianco fazzoletto si mise a lacrimar. Non lacrimar, Moretto, se ben so moribonda, la morte mi circonda, arrivederci in cielo, arrivederci in cielo, arrivederci addio, voglio morire anch'io, voglio morire con te.